L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Un saluto da Deborah Rosciani. Siamo giunti all'ultimo appuntamento del nostro alfabeto del risparmio. Questo percorso curato da Radio 24 in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria che ci ha accompagnato nel corso di tutto questo mese di ottobre 2020, mese dell'educazione finanziaria. Insieme abbiamo affrontato molti temi importanti sui quali abbiamo potuto ascoltare le analisi e le riflessioni delle tante realtà attive nel Comitato, direttamente dalla voce delle persone che lo compongono. Per quest'ultima puntata scegliamo una delle ultime lettere dell'alfabeto, la T di titolo di Stato. Il mondo dei bot e dei BTP in questi anni ha fatto tanto parlare di sé, da strumento fra i più sicuri per il risparmiatore, o almeno ritenuto tale. Negli ultimi anni anche l'obbligazione governativa è diventata molto vulnerabile. I mercati si sono fatti complessi, i debiti pubblici sono lievitati per fronteggiare le crisi che si sono susseguite in questi anni, e gli stati hanno dovuto fare la loro parte. Anche le banche centrali sono intervenute e hanno preso a comprare titoli di molti paesi per calmierare gli effetti di mercato. L'ultima interessante frontiera è quella delle obbligazioni di scopo, che finalizzano ad una destinazione precisa la raccolta fra gli investitori. Abbiamo parlato di tutto questo con Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, ma prima di sentire la voce del nostro esperto, come sempre, partiamo con la nostra scheda. T come titoli di Stato. I titoli di Stato sono obbligazioni emesse dai governi. In Italia questa funzione è svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, attraverso il Dipartimento del Tesoro. I titoli di Stato sono anche chiamati obbligazioni sovrane e sono un prestito che i sottoscrittori, persone fisiche, società, enti, fanno allo Stato emittente. Come spiega la descrizione di questi strumenti disponibile sul sito quellocheconta.gov.it, i titoli di Stato si possono acquistare in asta, cioè al momento dell'emissione, mercato primario, oppure sul mercato secondario, dove vengono scambiati dopo essere stati collocati in asta. Sul mercato secondario il loro valore può cambiare anche sensibilmente, offrendo delle opportunità interessanti. I titoli di Stato italiani sono stati per molti anni, nella seconda metà del Novecento, l'investimento preferito da imprese e famiglie per la loro affidabilità e per i buoni rendimenti allora offerti. In realtà, quei rendimenti erano soprattutto destinati a tenere il passo di un'inflazione che arrivò anche alla doppia cifra. Da anni ormai, sia l'inflazione sia i rendimenti si sono ridotti a valori molto bassi, talvolta negativi. Non è invece cambiata l'affidabilità di questi strumenti, sempre apprezzati sia dagli operatori professionali italiani e esteri, sia da singoli risparmiatori e famiglie. Oggi, inoltre, l'offerta di titoli di Stato è molto più ampia, con titoli correlati all'andamento dell'inflazione, titoli a rendimento crescente per chi li trattiene oltre certe soglie temporali, perfino titoli di durata pluridecennale. Se i rendimenti contenuti o quasi nulli portano a percepire i titoli di Stato come investimento difensivo, non va però trascurato che hanno il vantaggio di essere sempre liquidabili, quindi si rientra subito in possesso di quel che si è investito, e servono a garantire il capitale. Per la maggioranza dei titoli italiani non si applicano commissioni sull'acquisto in asta, previste solo per i bot, mentre le commissioni vengono applicate dagli intermediari per gli acquisti dopo l'asta sul mercato secondario. Le spese, che il cliente paga per la gestione e l'amministrazione del deposito bancario in cui detiene i titoli di Stato, non possono superare i 10 euro a semestre. La tassazione dei titoli di Stato, non solo italiani, infine, è agevolata. Attualmente si applica una ritenuta del 12,5%, mentre sugli altri strumenti finanziari la percentuale di tassazione è di norma del 26%. Come dicevamo, il mondo dei titoli di Stato è molto cambiato ultimamente. Abbiamo sperimentato anche il terreno dei rendimenti negativi, una condizione che mai avremmo immaginato fino a pochi anni fa. La prima cosa che abbiamo chiesto ad Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, è proprio di descriverci, dal suo punto di vista, quali sono i cambiamenti più rilevanti del mercato obbligazionario e come sta cambiando l'approccio del risparmiatore verso questo mercato. Sentiamo. Il rapporto tra Tesoro come emittente di titoli di Stato e risparmiatori è andato certamente cambiando molto nel corso degli anni. Attualmente la quota dei titoli di Stato che sono detenuti direttamente dalle famiglie italiane è piuttosto bassa, a fine luglio è il 7,5% del totale. È scesa nel corso degli anni per diversi fattori, uno l'ho ricordato lei, sicuramente il livello dei tassi è andato scendendo e questo li può rendere meno appetibili o riconoscibili dalle famiglie, ma è cambiata anche proprio la struttura dell'industria e il modo in cui l'industria si rapporta ai risparmiatori al dettaglio e i prodotti che offre. La gran parte dei titoli di Stato in realtà arrivano comunque alle famiglie, ma arrivano canalizzati in altri prodotti che l'industria confeziona, come fondi, ETF o anche polizze assicurative finanziarie. Un tempo eravamo abituati a rendimenti a due cifre ed era parte della cultura comune recarsi in banca a prenotare BOT e BTP. Ora questo non c'è più, ma è una tendenza che non riguarda soltanto l'Italia e il Tesoro, è una tendenza che ha riguardato tutti i paesi, anche quelli che hanno un programma dedicato al retail anche di vecchia data. Sicuramente c'è in partenza per i giovani una poca dimestichezza con gli strumenti finanziari, ma poi in particolare probabilmente anche di titoli di Stato sanno poco, possono essere incuriositi da strumenti come valute virtuali o altri tipi di investimenti in impieghi più rischiosi, eppure ci dovrebbe essere una più diffusa consapevolezza del fatto che i titoli di Stato sono strumenti molto semplici, molto sicuri, sono molto liquidi, quindi rientrare dell'investimento in un titolo di Stato è facile, trasparenti e hanno moltissimi vantaggi rispetto alla gran parte degli strumenti. Come sapete, il sottotitolo del nostro podcast è Le scelte per ripartire. Negli ultimi mesi, infatti, è sopraggiunta la pandemia di Covid-19 e la crisi economica enorme che ne è derivata. E questo ha influenzato tutte le scelte in materia economica, quella delle famiglie e anche quelle del Tesoro, che ha fatto a sua volta delle scelte per ripartire. Pensiamo al BTP Italia di maggio, al BTP Futura di luglio, emissioni dedicate la cui raccolta è stata finalizzata a finanziare le misure straordinarie di risposta alla pandemia. A queste seguirà tra pochissimo un nuovo BTP Futura. Sentiamo dalla voce di Alessandro Rivera la descrizione di questa fase così particolare. Abbiamo avuto un problema senz'altro inaspettato e ci siamo dovuti trovare a trovare una soluzione per emettere molti più titoli, raccogliere molte più risorse in poco tempo, quindi abbiamo dovuto certamente adottare una strategia fatta di diverse componenti. Abbiamo aumentato il numero delle aste, abbiamo aumentato la quantità di titoli che sono stati portati in asta, abbiamo fatto ricorso a canali di accesso a investitori istituzionali in maniera più massiccia, i cosiddetti sindacati, i rapporti diretti con gli investitori istituzionali. Ma accanto a tutte queste cose, credo che sia questa la cosa più interessante per gli ascoltatori, abbiamo perseguito quella strategia di cui parlavo prima, abbiamo cercato di riallacciare e rinforzare perché l'avevamo riallacciato già da qualche tempo, il contatto con le famiglie, con gli risparmiatori al dettaglio. Questo ha portato dei risultati perché l'ammontare di titoli di Stato detenuti dalle famiglie italiane, quella tendenza di cui parlavo prima, ha avuto una inversione. Proprio nel corso del 2020 le famiglie italiane hanno aumentato la quantità di titoli di Stato che detengono. e abbiamo creato dei prodotti nuovi e abbiamo anche fatto leva su quelli che già il risparmiatore conosceva, come il BTP Italia. Il BTP Italia lo abbiamo finalizzato a sostenere le spese che sono state necessarie per far fronte alla pandemia nei decreti legge di marzo e di maggio. Rimaniamo sul tema del BTP Futura, la cui prossima edizione è prevista dal 9 novembre. Il titolo avrà una durata di 8 anni e finanzierà le nuove misure per la ripresa dell'economia dopo la pandemia. Oltre a presentarcelo, Alessandro Rivera risponde anche ad una delle preoccupazioni più diffuse rispetto ai titoli di Stato, ovvero il fatto che per via di rendimenti troppo esigui, se non negativi, non garantiscano un ritorno dall'investimento. Il BTP Futura non è vero che ha rendimenti negativi, quella di luglio aveva dei rendimenti piuttosto interessanti e le caratteristiche dell'emissione di luglio saranno replicate in quella che parte adesso dal 9 novembre. Ci saranno degli incrementi di tasso nel corso della vita del titolo, nei primi 3 anni sarà un tasso fisso, poi aumenterà per i successivi 3 e poi ancora per gli ultimi 2 anni. Poi c'è un premio fedeltà per chi tiene il titolo fino alla scadenza, che è pari alla media del tasso nominale di crescita del PIL durante la vita del titolo. E il minimo di questo premio è l'1%, al massimo si potrà arrivare al 3%. La previsione che noi abbiamo di rimbalzo dell'economia dopo che ci sarà stato finalmente il superamento di questa fase di crisi ci fanno ritenere che la probabilità di arrivare nei pressi o al limite massimo sia piuttosto alta. Un 3% distribuito su 8 anni e poi le altre caratteristiche le avete anche in parte ricordate, la tassazione agevolata che è sempre bene ricordare, è metà di quella che vale sulle altre attività finanziarie, al 12,5%, non ci sono commissioni per l'acquisto, quindi il rendimento sicuramente è positivo. La liquidità, questa è una caratteristica molto importante, questi sono titoli che saranno quotati su mercati regolamentati e quindi all'occorrenza chi volesse rinunciare al premio di fedeltà detenendolo fino alla scadenza lo potrà facilmente vendere. Il titolo è collocato a luglio, il BTP Futura di luglio è collocato alla pari a 100, in questo momento chi lo volesse vendere lo potrebbe vendere a 102,3, quindi è una quotazione che è andata salendo perché i tassi sono certo. Nel frattempo scesi. Un'altra grande operazione sulla rampa di lancio è quella dei cosiddetti BTP Green, titoli di Stato pluriennali, pensati per finanziare settori molto precisi e legati proprio ad obiettivi di sostenibilità. Sentiamo. A breve noi renderemo pubblico il framework che illustrerà i settori di spesa del bilancio dello Stato che saranno interessati da queste emissioni di BTP Green, oltre agli aspetti operativi, legali, eccetera. Ma la cosa più importante è che saranno individuate le aree che saranno finanziate, fonti energetiche rinnovabili e a bassa emissione di anidride carbonica, efficienza energetica per ridurre il consumo di energia pubblico e privato, trasporti sostenibili, intermodabili, reti di trasporto pubblico, controllo, prevenzione dell'inquinamento, economia circolare, protezione dell'ambiente e la ricerca e lo sviluppo su tutte queste aree. Queste emissioni saranno non specificamente dedicate al retail, il retail potrà comunque avere accesso a questi titoli nel modo comune, nel modo in cui possono entrare in possesso dei titoli di Stato normali. Non è un'emissione dedicata al retail come il BTP Futura e il BTP Italia. Avremo sicuramente un'interlocuzione, un rapporto prevalentemente con gli investitori istituzionali, ma il retail, volendo, può facilmente accedere. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Siamo arrivati alla fine di questo ultimo appuntamento con l'alfabeto del risparmio che ha avuto come protagonista Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. Si conclude anche questa serie di podcast che ci ha permesso di toccare alcuni dei temi più rilevanti e che costituiscono in qualche modo delle urgenze sul fronte dell'educazione finanziaria. È importante informarsi, essere consapevoli delle proprie lacune e andare a colmarle, perché sempre di più, e questi mesi difficili ce lo stanno insegnando, ciascuno di noi sarà in prima persona responsabile responsabile con le proprie scelte del proprio futuro dal punto di vista economico e della finanza personale e familiare. Come approfondire questi temi, oltre che riascoltando questa serie di podcast? Naturalmente navigando in lungo e in largo con il portale dell'educazione finanziaria, quello che conta.gov.it, il sito che non ci stancheremo mai di segnalarvi, è ricco di contenuti semplici, accessibili, curati proprio dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Questo è l'ultimo consiglio con cui vi lasciamo, e ringraziandovi per l'ascolto, un saluto da Deborah Rosciani. In collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.